saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. E voilà, benvenuti a tutti, benvenuti alle buonanotti di allineamenti, il programma di Ciao Radio Como che chiude la giornata e vi dà la buonanotte. Sono Gas e, come l'altra volta, continuiamo il nostro viaggio nel fantastico anno del 1991. E dopo avervi spiegato tutti quei fantastici avvenimenti che non sono avvenuti ma che sono capitati ogni tanto, da cui siamo partiti, riprenderei il discorso dal nostro libro dell'anno. Il 1991 è l'anno di pubblicazione di 42 favole di Ermanno Bencivegna, La filosofia in 42 favole. E questo libro poi è cresciuto nel tempo, perché se andate oggi in Feltrinelli a Como non c'è la filosofia in 42 favole, bensì c'è la filosofia in 62 favole. Quindi accorrete subito in Feltrinelli, andate a prendere il bellissimo libro e avrete anche voi le vostre buonanotti fatte. Se invece non ce l'avete, ci penserò io a leggervi alcune poesie di alcune favole di Ermanno Bencivegna. E volevo partire dall'inizio, ma proprio dall'inizio, e quindi un altro di tutto. All'inizio, ma proprio all'inizio, all'inizio, c'era un solo di tutto. Un solo cane, una sola lanterna e una sola polizza di assicurazioni. Sembrava abbastanza e anche molto più economico. In questo modo, con la stessa energia e lo stesso materiale, si potevano fare più tipi di cose. E al mondo c'era più varietà, più inventiva, più ricchezza. C'era, però, anche una complicazione. Fu un fiammifero, anzi, il fiammifero, ad accendere il dibattito. A me hanno detto che sono un fiammifero, si lamentava. Ma io che ne so che cos'è un fiammifero? Non ho mai visto un fiammifero. Ho visto me, d'accordo, ma a parte che metà delle capocchie è dietro e non la vedo mai, anche quel che vedo sono sempre io. Non è un fiammifero. Sono io questo zolfo rossastro, io questo legno leggero, io questa sagoma sottile. Insomma, io mi sento sempre dal di dentro. E dal di dentro uno non è un fiammifero. Anzi, non è un bel niente, è lui e basta. Così io non so veramente che cosa sono. Ce ne vorrebbe un altro di fiammifero. Uno che non sono io. E allora potrei guardarlo e dire: ecco, quello è un fiammifero e io sono come lui. All'inizio, ma proprio all'inizio, all'inizio, c'era solo il fiammifero a protestare. Ma poi la cosa si allargò e a ogni angolo di strada, metrenomi e metrenotte, manometri e maniscalchi, saliere e saliscendi, ripetevano gli stessi mugugni. Fu così che il capo dovette ricredersi. Lui aveva pensato di far bene, con la stessa energia e lo stesso materiale, aveva fatto più tipi di cose, e invece tutti si lamentavano. Non c'era scelta dunque, bisognava fare meno cose, ma fare un altro di tutto. Fu difficile scegliere quali cose eliminare, e ancora adesso non è chiaro se il capo abbia scelto giusto. Non c'è più un drago verde, per esempio, anzi, il drago verde. Perché con tutto quel verde che si doveva un altro carciofo e un altro cipresso, e non c'è più l'idra con tante teste, perché quelle teste servivano per gli oranghi e i babonghi, ma oggi qualcuno ha nostalgia dell'idra e del drago. E darebbe volentieri tutti gli oranghi, i babonghi e i carciofi di questo mondo per vederli ancora levarsi urlando dallo stagno fangoso. Comunque almeno il fiammifero fu soddisfatto. Imparò che cos'era. E la smise di accendere il fuoco della discordia. Da allora c'è un altro di tutto e il problema è risolto. Anzi, quasi di tutto e quasi risolto. Perché dopo un po' fu il capo che cominciò a preoccuparsi. Lui che adesso era l'unico rimasto solo, ma non c'era niente da fare. Di capi non ce ne possono essere due. Molto carina questa favola che ci racconta qualcosa un po' su noi e la nostra conoscenza derivante dall'incontro con l'altro. Ci scopriamo quando scopriamo la nostra relazione con gli altri simili e diversi a noi. Ma quindi, e se nel mondo non ci fosse nessuno di simile diverso da noi, come faremmo? E andiamo a scoprirlo. Una volta non c'era nessuno. Ma chi l'avrebbe mai detto? Nessuno, appunto. Siccome non c'era nessuno, nessuno diceva niente. Così strana questa storia che non c'era nessuno. Era molto molto strana. Era vera senz'altro, perché in effetti non c'era nessuno. Ma nessuno poteva dirla. Prima o poi ci fu qualcuno, ma le stranezze non erano finite. Quando qualcuno cominciò a raccontare la storia che una volta non c'era nessuno, gli altri aggrottavano la fronte e sollevavano enormi punti interrogativi. Perché? Come si faceva a sapere che una volta non c'era nessuno? Quando non c'era nessuno, non c'era nessuno a saperlo. E il momento che ci fu qualcuno, non si poteva certo dire che non ci fosse nessuno. Così, ancora una volta, la storia era vera, ma nessuno poteva dirla. Adesso tutti dicono che c'è sempre stato qualcuno. Non è vero, ovviamente, perché una volta non c'era nessuno, ma è tutto quello che si può dire. Ragazzi, non ditemi che questa favola non è fantastica. Secondo me questa è la migliore, quindi per questa settimana ci fermiamo qua. Io vi do appuntamento alla prossima e ad affrontare l'anno 1992. Continuo comunque a consigliarvi, a suggerirvi di andare a prendere la filosofia in 42 o 62 favole, come volete, di Ermanno Bencivegna. E buon 1991 a tutti, buona notte a tutti. Ciao. Ora vi lascio con una canzone che mi ero dimenticato di annunciarvi, perché è una canzone che vi struggerà il cuore. Wim Wenders.